leggero come il vento ormai. Sono come fuga e c'è una voce da lontano che mi chiama, da lontano che mi chiama e non so chi è. Chiama e non so chi è. Uè brigadier, uè brigadier, guarda ma faccia mori, vedo brigadier. Uè brigadier, uè brigadier, guarda ma faccia mori, vedo brigadier. Ma quando vedo luce se vota di un verbo a me, ma quando vedo luce se vota tu manda a me, ma quando vedo luce se vota non spia a me. Ascolti tu.